Sociale Connettive presenta Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femme, women, mulieres, poem, uniques, mujeres. The cauldron was bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like the runners in a stream. And they spread themselves before me, an offering so sweet. And they beckoned, and they beckoned, come on, daddy, and eat. Eat the summer cannibals. Eat, eat, eat. You eat the summer cannibals. Eat, eat, eat. Buonasera a tutte e a tutti. Stasera in questa puntata parleremo di prostituzione dal punto di vista del femminismo radicale. In particolare parleremo di clienti della prostituzione, o come sarebbe meglio chiamarli, e il termine è ormai impiegato da molti gruppi femministi e anti-prostituzione occidentali, sarebbe meglio chiamarli prostitutori, cioè coloro che con il loro comportamento alimentano, mantengono e diffondono l'acquisto del corpo delle donne nei diversi paesi del mondo, e rafforzando allo stesso tempo una cultura di assoggettamento e di sfruttamento del corpo femminile e subordinandolo allo stesso tempo ai desideri degli uomini e più che altro alla loro voglia di dominio. Infine, quello che i prostitutori fanno, le ricadute che il loro comportamento ha, che è un comportamento sessista, è di alimentare i pregiudizi contro le donne e fomentare una cultura dello stupro e della mercificazione sessuale che sta avendo pesanti ripercussioni non solo da un punto di vista culturale in generale, ma soprattutto sulla cultura giovanile, sul mondo dei giovani e sulla loro socializzazione alla sessualità e ai rapporti tra i generi. Di questo e di altro ancora ne parla nel suo intervento, che noi abbiamo tradotto dallo spagnolo e che è visibile su YouTube con il titolo di La demanda de prostitución, in occasione, che è stato tenuto in occasione del forum di politica femminista di Granada lo scorso 23 settembre del 2013. L'intervento è di Don Enrique Díez Gutiérrez, che è professore alla Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università di León e presidente dell'Associazione Estatal de Hombres por la Abolición de la Prostitución. Il suo lavoro di docente e di ricercatore è incentrato prevalentemente sui temi del genere, della pedagogia e dell'educazione interculturale. Si è occupato nel suo lavoro in particolare dell'analisi del sessismo nei mezzi di comunicazione, televisioni, videogiochi, eccetera, e degli aspetti antipedagogici che questi mezzi di comunicazione ormai implicano. È autore del libro La cultura del genere en la organización escolar, pubblicato nel 2006, e ha partecipato inoltre a diverse ricerche sul tema del mancato accesso o del limitato accesso delle donne ai posti dirigenziali nel mondo del lavoro. Ha condotto ricerche sull'incidenza della legge sulla violenza di genere, che è stata promulgata in Spagna qualche anno fa, e sugli studi e sulla prevenzione della medesima. Ritiene pertanto che gli uomini siano i maggiori responsabili del commercio della prostituzione e che, in quanto causa principale del problema, debbano essere allo stesso tempo parte integrante della soluzione e debbano attivarsi per questo. No, no, no, no. Oh, yeah. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. Fears too. La domanda della prostituzione. Pensavo di presentarmi a questo incontro con una maglietta particolare che purtroppo non ho fatto in tempo a indossare perché mi è arrivata in ritardo. È una maglietta che appartiene al gruppo di uomini di Leon, di cui faccio parte e assieme ai quali cerco di diffondere il concetto secondo il quale la violenza di genere non riguarda solo le donne, ma è bensì una lotta a cui anche gli uomini devono prendere parte. Poiché ci libera dalla maschilità tradizionale a cui siamo stati socializzati nel corso di tanti anni, allo stesso modo in cui le donne sono state socializzate all'oppressione e al cui interno abbiamo costituito la nostra società. E questa maglietta, e per questo avrei voluto indossarla, mi sembrava molto significativa e ha a che vedere con ciò che dirò qui, e il cui slogan è: il silenzio ci rende complici. Si dice di solito che fu Martin Luther King, anche se non fu il primo a impiegare questa espressione, a dire che il male di questa società non sono di fatto gli esseri umani malvagi. Il grande problema di questa società riguarda i tanti esseri umani che guardano dall'altra parte, quando il male prende il sopravvento. Di tanta gente buona che semplicemente rimane in silenzio o resta a guardare e non vuole rendersi conto del male che sta accadendo. Indossare questa maglietta significava per me che non basta analizzare e fare appelli, ma piuttosto ritengo che gli uomini debbano fare un passo avanti e impegnarsi in una lotta più attiva e decisa, e che il nostro ruolo è importante per questa ragione. Mi rivolgerò essenzialmente agli uomini, ed è ciò che faccio con la mia associazione, poiché se le donne sono cambiate tanto, anni luce rispetto a prima, hanno realizzato un cambiamento radicale in questi ultimi due secoli, gli uomini sembrano continuare a vivere come all'epoca di Neanderthal, mentre il modello di maschilità tradizionale con cui veniamo socializzati ed educhiamo le nuove generazioni, questo modello potentissimo che ancora influenza giovani ragazzi e ragazze, continua a restare inalterato e l'orizzonte dell'uguaglianza si sta avvolgendo ancora una volta a favore della maschilità tradizionale. Questo si deve prevalentemente ai modelli di socializzazione propinati dai media, TV, cinema, videogiochi, ed è in questo contesto che vorrei parlarvi di prostituzione. Parlerò essenzialmente di tre punti fondamentali: del perché la prostituzione ha a che fare con gli uomini, di cosa intendo per prostituzione, visto che a volte gli uomini parlano molto di fretta di prostituzione e manifestano diverse complicità. Ma soprattutto vorrei incentrarmi su quest'ultimo punto, e cioè il ruolo che giocano gli uomini nel tema della prostituzione. Perché ricorriamo alla prostituzione? In una società in cui si suppone non ci sia tanta repressione come all'epoca franchista, in cui il ruolo della Chiesa era preponderante, dove c'era tutta una chiusura, una moralità severa, dei costumi imposta e dominante, oggi in cui viviamo in una presunta democrazia, in cui c'è un certo margine di libertà o di liberalismo, malgrado ciò, gli uomini e giovani continuano non solo a servirsi della prostituzione, ma se ne servono ancora più di prima. E poi, come educare giovani all'uguaglianza di genere in un mondo in cui la prostituzione vuole imporsi come professione? Innanzitutto vorrei chiarire che l'immagine reale della prostituta ha poco o nulla a che vedere con la signora altolocata, in abiti succinti, autrice del libro in cui racconta della sua esperienza e di come sia divenuta ricca attraverso l'esercizio della prostituzione. Se per caso ricordate quel film di Julia Roberts, Pretty Woman, vi prego di dimenticarlo. La maggior parte delle prostitute non vive in una suite a 5 stelle, con una carta di credito infinita e un uomo bellissimo al loro fianco, ma proviene dalle strade delle città più povere del pianeta per servire benestanti uomini occidentali. Nonostante la crisi che ci attanaglia, viviamo pur sempre meglio di loro. È vero che ricorriamo al tema della povertà per spiegare le condizioni di miseria di cui soffrono moltissime donne in tutto il mondo e all'attuale crisi economica, o meglio, l'attuale saccheggio che ci stanno imponendo, che alimenta la prostituzione. Secondo l'ONU, del 1,5 milioni di persone che vivono con meno di $1 al giorno, la maggior parte sono donne. E quel che è peggio è che il gap che separa il reddito maschile da quello femminile è aumentato nell'ultimo decennio. per cui la prima causa della prostituzione è la femminilizzazione della povertà. La seconda causa è la tratta di persone. Ed io sostengo che esiste la tratta perché esiste la prostituzione, allo stesso modo in cui esisteva la tratta degli schiavi perché esisteva la schiavitù. È uno dei più grandi commerci del mondo dopo le armi, la droga. Secondo l'ONU, l'80% delle vittime della tratta nel mondo sono donne destinate al mercato della schiavitù sessuale per servire uomini occidentali. Mi riferisco non solo a dirigenti aziendali, ma anche a operai e rispettabili lavoratori, padri di famiglia e studenti universitari che festeggiano la fine dell'anno accademico, o scapoli a cui riesce meno complicato servirsi della prostituzione piuttosto che legarsi a una donna di pari condizioni e libertà sociale. La terza causa, quella fondamentale, è la domanda di prostituzione che proviene dai paesi ricchi. La causa di questa domanda sono i prostitutori, un termine che mi sembra più appropriato di quello di cliente, che è un eufemismo che serve solo a occultare la verità. Senza domanda non c'è offerta. Questo è uno dei principali fondamenti dell'economia. Si calcola che in Spagna circa il 39% dei maschi ha fatto uso di prostituzione almeno una volta nell'arco della sua vita, ovvero circa la metà dei maschi spagnoli è stato almeno una volta complice di questo sistema. Credo che la prostituzione non sia la professione più antica del mondo, ma piuttosto credo sia la forma di violenza, di sfruttamento e di oppressione più antica inventata dagli uomini per mantenere le donne sessualmente a loro disposizione. Se la prostituzione diventasse una professione come un'altra per le donne, mi domando, in quanto educatore e professore, come potrei educare i miei studenti e le mie studentesse all'uguaglianza di genere in una società in cui le ragazze sanno che sul loro orizzonte si staglia la prostituzione e dove i ragazzi frequentano in massa le vetrine dei locali in cui sono esposte le prostitute, sullo stile olandese per intenderci, e dove sanno che possono sfruttare quelle donne in vetrina per le loro voglie, fin tanto che hanno il denaro necessario per poterlo fare. Pertanto definirei la prostituzione come una forma di violazione di genere. Le prostitute vivono in una situazione di sfruttamento e di abuso sessuale. La questione allora è questa: anche con il pagamento di una cifra in denaro che viene corrisposta alla prostituta, davvero possiamo considerare questo abuso, qualunque sia il nome che vogliamo dargli, impiego, lavoro sessuale, come un lavoro? Ay, qué bonito es volar y a las dos de la mañana y a las dos de la mañana y ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana. Hasta quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me siento en sus piernas, me da de vestir. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se chupa usted? Ninguna, ninguna, ninguna no ve, y en dos pretensiones le chupa usted. Y ahora sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo. Y ahora sí, maldita bruja, ya le vas a chupar, ya tu marido el ombligo, ya tu marido el ombligo. Se regolamentiamo la prostituzione, questo non avrà conseguenze negative soltanto sull'educazione. In seconda battuta ci saranno ricadute sulle relazioni patriarcali. Di fatto questo equivarrebbe ad accettare e organizzare un sistema di subordinazione sociale tra donne e uomini e annullerebbe quello che negli ultimi decenni hanno fatto molte donne per la lotta all'uguaglianza di genere. Questo inoltre andrebbe a sostenere il controllo del patriarcato, che danneggerebbe non solo le ragazze e le bambine che si trovano nella prostituzione, ma anche l'insieme delle donne in generale in quanto classe, consolidando la definizione patriarcale delle donne, il cui scopo sarebbe quello, infine, di servire sessualmente gli uomini. Gli uomini dovrebbero imparare a vivere senza servitrici sessuali o domestiche. Gli uomini hanno un problema serio. Per quale motivo non riescono a convivere con l'altro 50% dell'umanità in una situazione di parità? E questo ha molto a che vedere con il motivo per cui gli uomini si servono della prostituzione. In ultima analisi, se dovessimo integrare la prostituzione all'economia di mercato, stiamo dicendo che sarebbe un'alternativa reale per le donne e di conseguenza per le bambine. Ciò che diciamo, insomma, è che mediante questo processo di regolamentazione stiamo rafforzando la normalizzazione della prostituzione in quanto opzione lavorativa essenzialmente per le donne povere. In questa socializzazione della normalizzazione della prostituzione, gli uomini giocano un ruolo fondamentale. Quando si parla di prostituzione, quasi tutti i discorsi e le riflessioni ruotano attorno alle prostitute e quasi sempre il ruolo dei prostitutori viene occultato, minimizzato o protetto, mentre invece è fondamentale per capire il punto di partenza della prostituzione. Del resto, se non esistesse la domanda, non ci sarebbe l'offerta. Che vuol dire questo? In definitiva siamo noi uomini in quanto classe a mantenere e a rafforzare la sottomissione delle donne a questa violenza di genere, richiedendo tale commercio e socializzando le giovani generazioni al suo utilizzo. Quasi sempre si è soliti giustificare la prostituzione come una realtà sociale inevitabile, qualcosa di naturale e praticamente inamovibile. Gli uomini di destra preferiscono che questa realtà resti nell'ombra per mantenere questa doppia morale, mentre gli uomini di sinistra affermano di volerla legalizzare, motivando questa posizione con la tutela dei diritti delle lavoratrici sessuali e per liberare il resto degli esseri umani, usando proprio questa argomentazione dal gioco del moralismo retrogrado. Ritengo che entrambe le posizioni eludano i meccanismi patriarcali su cui poggiano. Secondo un'analisi delle ricerche sul tema che abbiamo svolto, ad eccezione certo di alcune, tutti i lavori consueti su questo tema quasi sempre ignorano i prostitutori, ma quel che più è grave è che quasi sempre ai prostitutori costa accettare la loro situazione, rappresentarsi in quanto tali. C'è di più. Quando prima ho parlato del fatto che un uomo su quattro ricorre alla prostituzione, in quest'aula ci sono stati sorrisi, risatine e atteggiamenti di complicità. Se io avessi detto che un uomo su quattro di quelli che si trovano qui oggi fosse stato denunciato o condannato, la cosa ci farebbe sorridere, ridere? Sottolineo l'importanza della normalizzazione, le battute, le barzellette, lo humor, la complicità rispetto a determinate tematiche come questa, perché io mi chiedo con quali occhi guarderemo questa sala se sapessimo che alcuni uomini che si trovano qui, un uomo su quattro, sono maltrattatori o sono stati denunciati. Ciò nonostante ritengo in fondo che con queste risatine accettiamo implicitamente che una buona parte degli uomini che sono qui potrebbe essere un prostitutore, un cliente, eccetera, senza darlo troppo a vedere. Credo che di solito in qualsiasi contesto della facoltà, non solo in questi commenti e allusioni di complicità si trasformino in motivo di dileggio e che soprattutto vengano minimizzati, perché penso che abbiamo normalizzato troppo la prostituzione. Io credo in tutta sincerità che questo rifiuto ad affrontare il tema dei consumatori di prostituzione in modo critico, che credo che costituisca alla lunga lo scalino fondamentale della questione della prostituzione, non sia altro che la tacita difesa di pratiche e di privilegi sessuali maschili. Per questo ritengo sia importante fare un'analisi delle ragioni che spiegano per quale motivo, come mi chiedevo, in questa società più aperta e libera, come si presume che sia quella spagnola dopo la tappa dell'era franchista, ci siano tanti uomini e giovani che ricorrono alla prostituzione di donne o di altri uomini, perché non cadiamo in inganno, gli uomini si prostituiscono per la maggior parte per altri uomini. Vale a dire, lo schema è esattamente lo stesso. No, cantando mujeres, que la voluntad le sobra, la que prefiere en papaya, la que le gusta la cobra, toda denunciando junta de esta vida la zozobra. Por el camino seguimos, respetando cada tierra, no solo donde nacimos. De quien trabaja y trabaja, consagración aprendimos. Sembradas o flotantes, nunca, nunca nos rendimos. Directongo pa' tu cerebrongo, la sintaxis, la metáfora con el diptongo. Pa' que no te quejes, así yo me pongo. Si te cabronea, parece mondongo. Represento al pueblo que viene de ñongo. Gente de la tierra, no niño bitongo. Gente que suda y aruña con los dientes, con las uñas. Gente que el machete empuña. Juntos vamos a celebrar prosperidad, salud y amor, siempre van a sobrar. No sufra, no estés mal, todo va a mejorar. Y con lo que tengamos vamos a disfrutar. Aquí seguiremos cruda con nuestra misión, la obra. Representando mujeres que la voluntad les sobra, las que prefieren papaya, las que les gusta la cobra. Todas denunciando juntas de esta vida la zozobra. Yo me rebelo contra eso, me rebelo contra el poder del sistema, me rebelo contra la supremacía, me rebelo contra la falta de amor, me rebelo contra toda la injusticia, me rebelo. Búscate un consuelo, comete un cucumelo, complácete ese anhelo. Me pongo el espejuelo, derrito todo el hielo. Te presto mi pañuelo pa' que seque el riachuelo. Me corto este pelo y te llevo al cielo. Te quiero. Bendiciones pa' ese vuelo. Y comprenderás y te asombrarás. Y me acompañarás y sabrás que más deberás y merecerás. Tú también podrás, vencerás, tocarás las demás fibras de las piedras. Aquí seguiremos cruda con nuestra misión, la obra. Representando mujeres que la voluntad les sobra, las que prefieren papaya, las que les gusta la cobra. Todas denunciando juntas de esta vida la zozobra. Yo me rebelo contra eso, me rebelo contra el poder del sistema, me rebelo contra la supremacía, me rebelo contra la falta de amor, me rebelo contra toda la injusticia, me rebelo. Habana, Cuba, 2010, de 70, cruda juventud en la casa. La conclusione della maggior parte delle ricerche che hanno approfondito questo tema è praticamente la stessa. Cito quasi testualmente alla lettera una delle tante ricerche che ripete praticamente la stessa cosa. Un numero crescente di uomini cerca le prostitute più per dominio che per godimento sessuale. Nelle relazioni sociali e personali, questi uomini sperimentano una perdita di potere maschile tradizionale e non riescono a creare relazioni di reciprocità e rispetto con le donne con cui si relazionano. Sono questi gli uomini che cercano la compagnia delle prostitute, perché quello che cercano in realtà è un'esperienza di dominio e di controllo totale. Questo ha a che fare con il potere, con il fatto di essere al centro dell'attenzione, come se non fossimo usciti, direbbe l'analisi freudiana, da una tappa infantile in cui abbiamo bisogno di essere al centro dell'attenzione. Diciamo, metto questi soldi sul tavolo, ora siete tutte mie. Questo esercizio di potere, nel momento in cui non sono in grado di relazionarmi su un piano paritario con qualcuno che abbia tanto potere da richiedermi un trattamento di uguaglianza, in cui io devo considerare le sue necessità, i suoi desideri e dove, ciononostante, posso arrivare con dei soldi ed esercitare potere, questa è una delle ragioni fondamentali che provoca l'esercizio prostituzionale, questa forma di violenza di genere per denaro. Credo che una parte dell'umanità, come dicevo prima, gli uomini che ricorrono alla prostituzione, abbia un problema serio con la sessualità. Non essendo capaci di stabilire una relazione paritaria con le donne, e quando le donne acquisiscono un po' più di potere, sono incapaci di stabilire una relazione minimamente paritaria in cui considerino i desideri e le necessità dell'altra parte. Perciò mi preoccupa essenzialmente che quando le donne raggiungono una parte o la medesima parte dell'uguaglianza di diritto, gli uomini non sembrano capaci di improntare relazioni paritarie e ricorrono con maggiore facilità a relazioni commerciali con le quali, pagando, riescono a diventare più facilmente quel centro di attenzione esclusiva, come il bambino che vuole che tutto giri attorno a lui, regredendo a quella tappa di egocentrismo infantile intenso. E inoltre cercano relazioni che non contengono la benché minima ombra di responsabilità, di parità, attenzione, rispetto e corrispondenza. Questa è la conclusione alla quale sono giunte le ricerche che sono state svolte in materia. Il ricorso alla prostituzione ha a che vedere con il potere. Una di queste ricerche lo afferma in modo molto più esplicito, perché ricorreva a un'espressione che veniva utilizzata dai puttanieri, che è la seguente: sai, pagando me lo succhia in ginocchio, non devo restare in attesa, ma piuttosto fa quello che voglio. Non devo sedurla, né devo pensare a lei. Una seconda conclusione a cui giungono le ricerche, perlomeno quelle condotte in Spagna, afferma che il nostro è uno dei paesi in cui il consumo di prostituzione è meno condannato socialmente. Le inchieste indicano che un 27% degli spagnoli si serve abitualmente di prostituzione e che un 39% è ricorso alla prostituzione almeno una volta nella sua vita, senza per questo essere oggetto di condanna sociale. Di fatto sembra che esista un consenso sociale non solo tacito, ma proprio esplicito, diretto a coloro che cominciano e mantengono questa pratica e che socializzano ad essa le generazioni dei più giovani. La terza e ultima conclusione dell'inchiesta è che questo consenso sociale influisce sul processo di socializzazione dei bambini e dei giovani, incluso della sessualità della nostra società. Se a questo si aggiunge la proposta di regolamentazione della prostituzione al pari di una professione, si creerebbero precisamente delle aspettative sociali in cui le bambine impareranno che la prostituzione potrebbe essere un'alternativa lavorativa valida per loro, e i bambini impareranno che possono comprare le bambine per soddisfare i loro desideri sessuali. Per questo qualsiasi intervento su questa questione deve tenere conto la rappresentazione che nell'immaginario sociale legittima la prostituzione, cioè questo processo di socializzazione educativa. E concludo quindi il mio intervento con quest'ultimo punto. Come possiamo educare all'uguaglianza in un mondo in cui la prostituzione è una professione? Qualcuno potrebbe pensare seriamente che la regolamentazione della prostituzione potrebbe realmente rappresentare un avanzamento nelle relazioni egalitarie tra uomini e donne, e pongo la questione dal punto di vista educativo, che è il piano meno discutibile, perché stiamo pensando a come socializzare le generazioni future. I bambini vengono socializzati a un contesto in cui la prostituzione è regolamentata legalmente come una professione e che pertanto viene promossa socialmente e pubblicizzata. Pensiamo alla società dei consumi, in cui è imprescindibile farlo per qualsiasi professione che vuole espandersi. Bisognerà promuoverla e pubblicizzarla, ma loro cosa stanno imparando? Stanno imparando che le donne sono o possono essere oggetti a loro disposizione, che i loro corpi e la loro sessualità si possono comprare, che non ci sono limiti al loro utilizzo e che possono perfino esercitare violenza su di loro, perché ci saranno determinati spazi in cui avranno tutti i diritti a farlo se hanno i soldi per poterlo fare. Per questo credo radicalmente che sia contraddittorio difendere e parlare d'uguaglianza tra uomini e donne all'interno del processo educativo dei bambini e delle bambine e allo stesso tempo appoggiare spazi e relazioni di potere esclusivamente a vantaggio degli uomini, in cui le donne paiono essere incluse solo quando sono al servizio di questi ultimi. Credo che in questo contesto educhiamo i bambini ad avere aspettative per le quali non vorranno rinunciare, per nessun motivo, a nessuno dei loro desideri sessuali e a non tenere in considerazione l'altra persona, premesso che possono fare tutto fin tanto che hanno il denaro per pagarle. C'è di più. Penso che quello che faremmo sarebbe di socializzare i bambini e le bambine a valori completamente differenziati. I bambini, loro in quanto uomini, potranno farlo, comprare e godere del corpo delle donne e delle bambine, mentre le bambine, in quanto donne, potranno stare al servizio degli uomini. In conclusione, e con questo termino qui il mio intervento, credo che attualmente siamo invischiati non soltanto in una battaglia economica, ma anche in una guerra ideologica di valori e di coscienza sociale. Credo che per l'uguaglianza, come recita lo slogan della maglietta, sia il nostro silenzio ci rende complici di questa nuova forma di schiavitù e di violenza di genere. E penso che bisognerebbe recuperare le parole di Martin Luther King quando diceva che di fatto dovremmo pentirci in questa generazione non tanto degli atti delle persone perverse, quanto del silenzio sbalorditivo delle persone per bene. Per questo ritengo che educare all'uguaglianza ci esiga di rompere quel silenzio complice ed impegnarsi seriamente nel contrasto a qualsiasi forma di violenza di genere. Credo che se vogliamo costruire una società realmente ugualitaria, dobbiamo centrare i provvedimenti legislativi sullo sradicamento della domanda, attraverso la denuncia, la persecuzione e la penalizzazione del prostitutore cliente e del prosseneta. Infatti la Svezia penalizza i prostitutori da una parte, applicando pene che arrivano fino a 6 anni di carcere, giacché qualifica questo crimine in quanto forma di violenza remunerata. In nessun caso se la prende con le donne o pretende di condannarle o di sanzionarle, giacché la prostituzione viene considerata come uno degli aspetti della violenza maschile contro le donne, le bambine e i bambini. Pertanto ritengo che il cambiamento debba passare per l'impostazione di un sistema economico equo e sostenibile che assimili al suo interno ambedue i sessi sul piano paritario, per poter perseguire le mafie e non favorire la loro installazione nel nostro paese con leggi permissive, al fine di trasformare la mentalità dei giovani uomini, non solo con le multe, ma attraverso l'educazione dei media. Fin tanto che non affronteremo la questione dei media, questo non sarà possibile. E affinché i diritti delle donne non siano più diritti di seconda classe, ma che facciano parte integrante dell'insieme dei diritti umani. E torno all'inizio. Si dice che la prostituzione sia sempre esistita, ma anche le guerre, la schiavitù infantile, la tortura, la morte di migliaia di persone a causa delle guerre e della fame lo è. Ma questo non prova alcuna legittimità né validità. Penso che abbiamo l'obbligo di immaginare un mondo senza prostituzione, allo stesso modo in cui abbiamo imparato a immaginare un mondo senza schiavitù, senza apartheid, senza violenza di genere, senza infanticidi o mutilazioni genitali femminili. Non possiamo rinunciare all'utopia che abbiamo di trasformare la nostra società e di educare all'uguaglianza gli uomini e le donne. Should've thought. nostra, la nostra trasmissione per oggi finisce qui. Ora vi salutiamo, vi ricordiamo che per qualsiasi informazione, commento, approfondimento sulle trasmissioni passate o su questa che abbiamo fatto, potete scriverci e contattarci all'indirizzo di posta connettive@gmail.com. Inoltre potete trovare ulteriori informazioni sull'argomento sul sito femminista antitratta e antiprostituzione www.rivistafemministanoblogs.org www.resistenzafemministanoblogs.org, ripeto, resistenzafemministanoblogs.org, che è particolarmente dedicato ai temi della violenza di genere, in particolare di quelli relativi alla tratta, alla prostituzione, all'industria del sesso. Ci sono articoli e anche interviste sottotitolate di attiviste famose, non come Lidia Cascio, come i soci Aikpitani, che lavorano e diffondono informazioni sulla tratta, sulla prostituzione, sullo sfruttamento sessuale, e anche articoli sull'antispecismo e sulla liberazione animale. Vi ringraziamo per essere state e stati con noi e alla prossima puntata. Grazie. Bitch, move over. Wear more ice than the bears in the polar. Off my shoulders. Nice, baby. Don't the jewelry look nice, baby? I don't really give a word. I tell them all they kiss my butt. Call that three groupies up in the club. And they paying for the tab, pick it up. I'm a lover, I don't need to fight. Give me time and I blow your mind. If you give me 2 seconds to blow your mind. Yeah, 5 plus 5. Yeah, I'm a dime. Yeah, I got 12 cars and I'm a star. Okay, kind. Them 7 digits numbers, that's the cash in my bag. Yes. I rhyme, I sing, and I do my thing. I dance, romance. Ladies, sorry, tell them how it is. You love me, I hate me, put it up special. Love me, I hate me, that is the question. If you love me, then fuck you. If you hate me, then fuck you. Love me, I hate me, put it up special. Love me, I hate me, that is the question. If you love me, then fuck you. If you hate me, then fuck you. Yeah. Side was mine, head to the side. Came roll, look like I need a free stripe. No one got crimps like mine. When I step, you see that shit shine. I don't show flesh, but I'm so fresh to death. But when I wake up early, early, I got that dirty morning piss. My burp in the face again, my friend, don't get offended, okay? I'm the realest girl in the game, and no, I ain't pretending. Yeah, I got no car, but I'm a star, okay? That 7-digit number's rolling, they're not that far away.